Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024. Bentornati o benvenuti, se questa per voi è la prima volta, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Questa settimana Tesla ha rilasciato un aggiornamento software per un ristretto numero di proprietari di veicoli che aumenta le capacità dell'auto di guidare in autonomia anche nei centri urbani, dove ovviamente le cose sono un po' più complicate, un po' meno prevedibili. In effetti, vedendo i video che sono circolati in rete negli ultimi giorni, l'auto si ferma ai semafori, riparte, svolta, segue le strade anche dove non c'è la linea di mezzeria e fa tante altre cose abbastanza sorprendenti. Tesla usa in questo modo i clienti per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale, che quindi possono imparare da situazioni reali. Altre aziende hanno centinaia di mezzi in giro per le città, soprattutto negli Stati Uniti, con proprio personale. Ovviamente c'è un acceso dibattito su questa scelta, visto che il sistema è ancora in versione beta, le versioni beta dei software non sono quelle definitive, e la stessa Tesla dice che il veicolo può sbagliare e ci deve sempre essere la supervisione del pilota. L'Agenzia per la Sicurezza Stradale Americana ha detto che sta monitorando la situazione. Tesla è sempre stata criticata anche per i nomi che usa per i propri sistemi, come ad esempio Autopilot, Full Self Driving, quello appunto l'ultimo che è stato rilasciato viene definito Full Self Driving, che danno al consumatore l'idea che l'auto faccia tutto da sola. Questo aggiornamento è stato rilasciato solo negli Stati Uniti, non è invece consentito in Europa, ovviamente per motivi legali, abbiamo delle leggi più restrittive da questo punto di vista, e peraltro, come dicevamo, è stato rilasciato solo ad un numero selezionato di proprietari che sono stati giudicati come prudenti e abili alla guida. Tutti i dati di guida delle auto Tesla vengono registrati dall'azienda, e quindi l'azienda sa benissimo come si comportano i piloti. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Questo è il weekend del Linux Day, che come molte attività si trasferisce completamente online. Per partecipare agli eventi e saperne di più su Linux, il sistema operativo open source e gratuito creato da Linus Torvalds nel 1991, andate su linuxday.it. Dopo quasi due anni dal lancio negli Stati Uniti, è disponibile anche in Europa, in 32 paesi, Facebook Dating, il servizio di Facebook per incontrare un possibile partner basato su interessi comuni e altre caratteristiche. Facebook promette che il sistema non proporrà mai un amico della tua rete fra i candidati all'incontro, e ci mancherebbe altro, potrebbe dire. È entrato ufficialmente nel mercato italiano Vivo, che è uno dei più importanti produttori cinesi di smartphone, forte soprattutto in Cina e in Asia. Vivo fa parte di un grande gruppo cinese, BBK Electronics, che possiede altri brand forse più famosi e più noti già in Europa, come Oppo, OnePlus e Realme. L'altra notizia della settimana che riguarda il mondo degli smartphone arriva da Huawei, che ha annunciato il nuovo Mate 40 Pro, che per caratteristiche e completezza entra sicuramente subito nella lista dei migliori smartphone attualmente sul mercato. Il Mate 40 Pro non ha e non si possono installare i servizi Google per via delle restrizioni del governo americano, e sicuramente questo per alcuni consumatori è una limitazione, per altri potrebbe anche essere un plus. Arriverà nelle prossime settimane anche in Italia ad un prezzo di lancio che è proprio da top di gamma, 1.249 euro. Parliamo spesso di finanziamenti a startup e di nuove startup che vengono finanziate, invece ce n'è una che dopo appena 6 mesi chiuderà, si chiama Quibi. Ne avevamo parlato in primavera, le operazioni erano partite il 6 di aprile, una startup americana che offriva che offre ancora, perché non è ancora stata chiusa ma ha annunciato che chiuderà a breve, offre contenuti video on demand di massimo 10 minuti pensati per una fruizione da smartphone. Un servizio per una società in movimento, potremmo definirla così, lanciato però quando il virus ha costretto il mondo a fermarsi, a stare in casa. Quindi a quel punto uno dice, ma se devo guardare qualcosa lo guardo sul televisore. Quibi aveva raccolto quasi 2 miliardi di dollari, stiamo parlando di 1,8 miliardi di dollari. Entro l'anno WhatsApp metterà a disposizione dei negozianti una piattaforma per vendere i loro prodotti disponibili in Facebook Shops. È un trend interessante perché Facebook sta cercando di raccogliere soldi, sempre più denaro, anche attraverso applicazioni gratuite che attualmente non generano molti utili, come ad esempio WhatsApp. Adesso parliamo di Immuni, l'app di contact tracing italiana che da questa settimana è stata inserita nella rete europea di app di questo tipo. Le prime tre sono la app italiana, quella irlandese e quella tedesca. Altre se ne aggiungeranno nelle prossime settimane. È vero che si viaggia poco o comunque molto molto meno, ma è comunque un passo avanti importante. In questo modo, facciamo un esempio, se in un viaggio in Germania una persona italiana che ha questa applicazione entrasse in contatto con un tedesco che risultasse poi positivo al coronavirus e che usasse l'applicazione tedesca, quella persona italiana verrebbe avvisata, proprio perché i database dei dati, dei codici anonimi che queste app si scambiano, sono stati collegati e connessi. Uno, andando sull'applicazione, può scegliere almeno tre paesi dove desidera e dove ha intenzione di viaggiare. A proposito di Immuni, alcuni ascoltatori ci hanno segnalato che Tim ha inviato un messaggio in cui promette di non considerare il traffico dati generato da Immuni nel consumo dei giga della propria offerta, anche in assenza di un'offerta dati attiva sulla linea. Alcuni di fronte a questo messaggio si sono chiesti se Immuni consuma molti dati. Uno dice, ma come, se non mi considerano i dati vuol dire che l'applicazione ne consuma molti. Allora invece l'applicazione consuma pochissimi dati, praticamente forse una delle applicazioni che consumano meno dati, cioè stiamo considerati insomma poche decine di K alla settimana e al mese, cioè alcuni hanno fatto dei calcoli che forse consuma un mega o pochissimi mega all'anno, quindi stiamo veramente parlando di un regalo di Tim che di fatto è praticamente irrisorio. Noi come sempre vi consigliamo di scaricare questa applicazione che funziona benissimo. Ho sentito alcuni colleghi giornalisti che forse non hanno ben capito alcune cose, che hanno detto l'app funziona male. No, quello che funziona male sono state alcune ASL, l'organizzazione di alcune ASL, quindi un problema organizzativo, che non hanno caricato i dati dei positivi che utilizzavano Immuni. Immuni funziona benissimo. A proposito di Immuni, abbiamo il piacere di avere con noi Matteo Danieli, che è uno dei fondatori di Bending Spoons, si occupa dello sviluppo del prodotto. Da tempo aspettavamo di fare una chiacchierata con Bending Spoons. Benvenuto a 2024. Grazie. Mai nessuno al mondo aveva creato applicazioni di contact tracing. Ci sono state poche aziende, poche società, pochi gruppi di lavoro in giro per il mondo, dall'Asia all'Europa, agli Stati Uniti, che hanno creato applicazioni di contact tracing. Che cosa avete imparato? Immagino ti aspetterai una risposta che sia tecnica. In realtà la lezione forse più inaspettata è che, nonostante nel momento in cui abbiamo deciso di iniziare a lavorare a questo progetto avessimo le migliori intenzioni di metterci al servizio del nostro paese in un momento di gravissima difficoltà, mettendo le nostre competenze appunto a disposizione della creazione di un'app che pensavamo potesse avere un impatto molto significativo nel contenere la diffusione del virus. Quello che abbiamo scoperto è che, nonostante questo, nonostante avessimo deciso di lavorare a questo progetto in maniera completamente gratuita, in modo che non ci fossero poi costi da parte del contribuente, già nel momento stesso in cui si è annunciato che Bending Spoons sarebbe occupata di questo progetto, sono piovute critiche, accuse, tantissime falsità, devo dire. puoi immaginare come il fatto di lavorare a un progetto così importante, così critico, in un contesto però anche così difficile, abbia rappresentato per noi sia una sorpresa, onestamente non ce l'aspettavamo, ma anche un fattore di attrito e di difficoltà notevolmente importante. Quindi la lezione imparata è che non basta che tu abbia le migliori intenzioni, purtroppo ci saranno sempre sospetti, ci saranno tentativi di sabotare il progetto a cui cerchi di lavorare, e sicuramente l'altra lezione è che abbiamo dimostrato di riuscire a lavorare anche in queste condizioni, e io spero che quello che abbiamo fatto con Immuni mostri la qualità dell'impegno che ci abbiamo messo, la qualità anche del team che ci ha lavorato, e spero che abbiamo dimostrato di essere il team giusto in Italia per potersi occupare di un progetto così, così importante. Beh, questo mi sembra di sì, anche perché il codice è stato pubblicato, devo dire che decine, almeno di cui io ho notizia, ma probabilmente centinaia di esperti, e tra i più importanti esperti di questo tipo di tecnologia, anche di cyber security, hanno dato giudizi estremamente positivi sull'applicazione, ma insomma di questo abbiamo parlato anche in altre occasioni. L'aiuto che vi ha dato Apple e Google, che hanno deciso di fare una serie di modifiche, di mettere a disposizione una sorta di piattaforma base per tutti coloro che sviluppavano un'applicazione di contact tracing basata proprio su questo tipo di tecnologia, la famosa exposure notification. Quale aiuto vi ha dato? Quanto importante è stato? È stata utilissima. Non ti nasconderò che il giorno in cui abbiamo appreso che Apple e Google stavano lavorando a questo sistema, a questa tecnologia, siamo stati in realtà molto, molto sollevati. Questo perché quando abbiamo cominciato a lavorare a Immuni, questo succedeva a inizio marzo, metà marzo di quest'anno, abbiamo ovviamente analizzato in maniera molto approfondita il modo in cui Bluetooth funzionava sia sul sistema operativo iOS che sul sistema operativo Android, e ci siamo resi conto fin da subito che le limitazioni che gli sviluppatori si trovano ad affrontare sono davvero importanti. Faccio un esempio: utilizzando la tecnologia predefinita disponibile sul sistema operativo iOS, non sarebbe stato possibile far comunicare dispositivi iOS con altri dispositivi iOS. La comunicazione, lo scambio di informazioni sarebbe avvenuta soltanto tra dispositivi Android e tra un dispositivo Android e un dispositivo iOS. Una limitazione come questa, come puoi immaginare, è una limitazione importantissima per il successo di questo progetto. Quindi non ti nego che il fatto che Apple e Google abbiano lavorato a questa tecnologia ha aiutato moltissimo. Ciò detto, c'erano tantissime altre cose che dovevano andare costruite sopra questa tecnologia. Innanzitutto, tutto un aspetto di esperienza utente. Come dici tu, non sono mai state create al mondo app di contact tracing, quindi nel momento in cui ci siamo interrogati su come creare la funzionalità e l'aspetto, la veste grafica, le interazioni con l'utente, ci siamo trovati a dover inventare tutto da capo. L'Italia, peraltro, è stata uno dei primi paesi a lanciare un'app di contact tracing basata sulla tecnologia Apple e Google. Siamo stati terzi al mondo, dopo Lettonia e Svizzera. Quindi tutta la parte di interazione con l'utente, di spiegazione del funzionamento dell'app, l'abbiamo dovuta affrontare noi. Un'altra parte importantissima era tutta la parte di integrazione con il sistema sanitario nazionale, in modo che potessero essere caricati i dati di soggetti positivi per poter poi allertare i loro contatti. E anche questo è stato un problema che è stato risolto e che abbiamo dovuto affrontare in maniera indipendente. E abbiamo anche lavorato moltissimo sulla parte di privacy, trattamento dei dati, e una cosa di cui siamo molto orgogliosi è il fatto che l'Italia è l'unico paese al mondo, per quanto ne sappiamo, che sfrutta la tecnologia Apple e Google, e che riesce però ad avere visibilità sul numero di notifiche inviate, ad esempio, o sulla distribuzione degli utenti Immuni sul territorio nazionale. Questo grazie ad un meccanismo di raccolta dati anonimi e aggregati che permette di avere visibilità, che permette al Ministero della Salute di avere visibilità sul funzionamento dell'app senza nulla togliere alla grandissima attenzione alla privacy che è stata posta nello sviluppare questo progetto. Beh sì, per alcuni addirittura un po' troppa attenzione alla privacy, ma questo non è colpa vostra, nel senso che voi avete dovuto seguire le linee guida che vi sono state date. Dopo alcuni mesi di funzionamento dell'applicazione, che cosa avete imparato e soprattutto che cosa c'è che ancora non funziona? Perché ci sono state tante discussioni anche sulla capacità del Bluetooth di essere così preciso in alcune situazioni. Come dicevi prima, questo progetto, uno dei requisiti è stato avere molta cura per la privacy degli utenti, e questo significa che molti dei dati che sarebbero utili per poter capire meglio l'entità di appunto falsi positivi, falsi negativi e via dicendo, non vengono intenzionalmente raccolti. Questo rende molto difficile andare a capire quale sia l'entità di questi problemi. Quello che abbiamo fatto per ovviare a queste problematiche è che abbiamo condotto numerosi esperimenti di calibrazione, utilizzando diversi device, diversi dispositivi di test con Immuni installata, per appunto capire quali fossero i parametri migliori da applicare al sistema per minimizzare appunto sia i falsi positivi che i falsi negativi. Oltre a test che abbiamo effettuato internamente, ci siamo poi confrontati anche con gli altri sviluppatori che hanno creato applicazioni simili in altri paesi europei, proprio per assicurarci che i parametri scelti fossero in linea con quelli scelti da altri team, cosa che abbiamo effettivamente potuto appurare. E purtroppo più di così, proprio per, ripeto, la caratteristica che questo progetto bada moltissimo alla privacy, non siamo in grado di raccogliere e non siamo in grado di dire. Visto che siamo collegati e visto che ormai le chiavi di Immuni le avete consegnate definitivamente a Ministero della Salute, Sogei, PagoPA, che sono le strutture che si occupano tecnicamente anche degli aggiornamenti di Immuni, tra l'altro ricordo per le ultime novità per collegare Immuni con le app in tutta Europa serve fare l'aggiornamento. Ecco, però approfitto per chiederti qualcosa sul vostro business as usual, cioè quello che state continuando a fare, in modo particolare sul fitness, sul remote fitness, visto che c'è stato un boom in questi mesi di pandemia e visto che voi avete realizzato una delle app più famose di fitness. Che cosa ci puoi dire da questo punto di vista? Sicuramente questo è un fenomeno che abbiamo osservato noi direttamente, essendo proprio quello che dici tu, no? Il fatto che una delle nostre app principali opera proprio nel mondo del fitness, e in concomitanza del lockdown abbiamo visto molte più persone scaricare l'app, utilizzarla, proprio perché nel momento in cui le palestre chiudevano, le persone chiuse in casa dovevano comunque ingegnarsi per rimanere attive, il fatto di affidarsi ad un'app che ti offre dei piani di allenamento e che ti mostra come allenarti e come tenerti in forma è una scelta quasi ovvia. In Italia abbiamo deciso proprio fin dall'inizio del lockdown di offrire le nostre app di fitness in modo completamente gratuito a tutti gli utenti, e quindi il fatto che ci fossero molti più scaricamenti è stato legato anche a questa scelta. Però questa è una scelta che è avvenuta soltanto in Italia, non nel resto del mondo, ma comunque nel resto del mondo abbiamo visto un aumento dei volumi davvero significativo. Altre novità che vi riguardano? Stiamo lavorando su molti progetti interessanti che in questo momento sono ancora, diciamo, top secret, e quindi non te ne posso parlare, però ti posso invece dire che questi progetti sono legati sia al mondo del fitness, dove la nostra volontà è quella di utilizzare gli strumenti digitali per rivoluzionare davvero quella che è l'esperienza del fitness. Abbiamo visto tantissime innovazioni, tantissime novità, il fatto stesso che ci sia un dispositivo come l'Apple Watch che addirittura calcola un elettrocardiogramma è qualcosa di incredibile, che era inimmaginabile fino a qualche anno fa, però siamo anche convinti che l'innovazione non si fermi assolutamente qui, che ci sia ancora tantissimo da inventare. Vogliamo essere partecipi di questa spinta innovativa, sicuramente nell'ambito del fitness e poi anche nell'ambito del montaggio video. Manny Spoons ha anche sviluppato uno degli editor video più scaricati sull'App Store, si chiama Splice. E perché ne parlo? Perché un altro trend che vediamo molto chiaramente è quello legato alla predominanza del video rispetto all'immagine. Social network come TikTok, dove l'unico tipo di contenuto è un contenuto video, hanno assolutamente incrementato sia il consumo di video da parte delle persone, ma ovviamente dall'altra parte anche la creazione. E questa creazione non è più appannaggio di studi televisivi, di aziende focalizzate sui media, ma diventa sempre di più democratizzato. Quindi in questo contesto in cui la persona media, il ragazzo di 18 anni che ha molta creatività, che vuole esprimere, ha una piattaforma su cui esprimersi, il fatto di supportare questa creatività, questa espressività con degli strumenti che rendano molto, molto forte il messaggio che vuole essere comunicato è qualcosa di ovviamente importantissimo. E con Splice ci collochiamo proprio al centro di questa rivoluzione e di questa grande espansione. Ne vedremo delle belle. Quindi voi potreste essere tra i primi, o comunque potreste nelle prossime settimane e mesi essere tra quelli che sfrutteranno il LiDAR, questo sensore, questo radar che Apple ha inserito nei nuovi iPhone 12 Pro. Sicuramente stiamo diciamo investigando questa possibilità. Anche lì penso ogni nuova tecnologia che viene lanciata, che viene resa disponibile, poi aumenta tantissimo anche le possibilità, quindi sicuramente quello è uno spunto molto interessante. Un altro trend assolutamente interessante è quello legato all'intelligenza artificiale, quindi al fatto di poter automatizzare molti dei processi di montaggio video che in questo momento sono ancora fortemente manuali. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Oppure di applicare delle modifiche al video che rendano un contenuto molto più interessante. Pensiamo solamente, faccio l'esempio che insomma in realtà è anche preoccupante per certi versi, che è quello del cosiddetto face swap, no? Esistono queste tecnologie che permettono di sostituire la faccia di un soggetto in un video con la faccia di qualcun altro. Il motivo per cui dico che è inquietante è che se utilizzate nel modo sbagliato, questo può ovviamente dar spunto a diverse fake news, può far pensare alle persone che un certo politico abbia detto cose che non ha detto, ma dal punto di vista della creatività, il fatto di poter sostituire un volto con un altro offre davvero molti spunti di espressione, no? E questo è qualcosa che è reso possibile dall'intelligenza artificiale, ma è soltanto una delle tantissime applicazioni che si possono immaginare, quindi anche quello è sicuramente un trend da tenere d'occhio. Matteo, grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie a te. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, grazie a Paolo Corleoni che si occupa della parte tecnica. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi, 2024, quindi 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook, LinkedIn o Twitter. E come sempre vi ricordo che la nostra puntata è anche in edizione, è disponibile anche in edizione podcast, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Tra poco parleremo di Gaia X. Non è un progetto famosissimo, conosciutissimo, ma è un progetto molto interessante dal punto di vista strategico per l'Europa, per creare una piattaforma cloud europea. Di questo parleremo tra poco, adesso invece ci occupiamo di tecnologia e agricoltura. È un tema che tocchiamo ogni tanto perché l'agricoltura è molto importante, sia per la nostra vita, perché mangiamo prodotti che arrivano dall'agricoltura, frutta e verdura, è anche un settore molto importante per la nostra economia, e la tecnologia, che potrebbe e dovrebbe essere utilizzata molto di più, sta cambiando e cambierà molto le cose, sia sul campo ma anche in altre dimensioni. Allora vogliamo parlare di nuove dimensioni, di quella che alcuni chiamano vertical farming, agricoltura verticale. Saluto Luca Travaglini, che è fondatore di Planet Farms. Benvenuto a 2024. Grazie a te. Inquadriamo subito il tema. Stiamo parlando di agricoltura 4.0, di fattorie urbane, alcuni orti urbani, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di indoor o vertical farm, che si voglia chiamare. Planet Farm ha sviluppato un sistema di coltivazione indoor che permette di controllare tutti i parametri che vanno a inficiare sul processo di crescita di ortaggi e piccoli frutti, a partire da aria, acqua, luce e terra, esattamente gli stessi elementi di madre natura. Ci racconti come è fatto uno dei vostri impianti? Noi andiamo a sfruttare la superficie e la cubatura, non la superficie come fa madre natura. Quindi noi siamo molto più produttivi perché non solo sfruttiamo la superficie, ma andiamo n volte sopra. È una tecnologia che permette un'agricoltura ad oggi il più sostenibile possibile, nel senso che i vantaggi che derivano da questa tecnologia sono molti e molto importanti. Il primo fra tutto è il fatto di poter produrre ovunque, mentre madre natura per definizione va a produrre dove ci sono le condizioni per poterlo fare e poi un grosso impatto in termini di carbon footprint per la consegna dei prodotti. Ecco, noi possiamo invece andare a produrre dove ci sono esigenze di consumo, ovvero nei pressi o nei centri urbani, o addirittura possiamo produrre in mezzo al deserto, possiamo produrre sottoterra, possiamo produrre in cima a una montagna. Qual è il ruolo della tecnologia e quali tecnologie sono coinvolte? La cosa stupenda è che in questo caso la tecnologia porta al prodotto più naturale possibile. Nel nostro caso la tecnologia porta a un controllo totale di tutti i parametri, come dicevo prima, che portano al prodotto più naturale possibile oggigiorno. Le tecnologie che parliamo sono tecnologie di ampio raggio, nel senso che utilizziamo la tecnologia blockchain per trasparenza, certificabilità e tracciabilità del prodotto, utilizziamo software di altissimo livello, software di intelligenza artificiale per acquisire il trend di crescita dei nostri ortaggi e migliorarlo a ogni ciclo produttivo. Utilizziamo tutte le tecnologie ad oggi presenti in quelle che è l'industria 4.0 e le stiamo elevando grazie all'apporto fondamentale dei partner di Planet Farms. Che cosa producete? Noi ad oggi produciamo succa Venago, andremo a produrre erbe aromatiche e insalata su foglia. In realtà la nostra sperimentazione ci ha già visto produrre tantissime altre varietà che però andremo a introdurre negli altri stabilimenti che faremo nei prossimi anni. Quando usi il verbo al futuro, quindi in riferimento alla fabbrica, chiamiamola così, di Cavenago, quindi in Lombardia, parliamo di mesi, anni, cioè quando comincerete a diventare produttivi e vendere? Cavenago entrerà in produzione per fine anno, mentre inizierà la commercializzazione dei prodotti a partire da fine marzo e saremo presenti sui scaffali delle maggiori catene di supermercati. Il costo del prodotto finale paragonato all'insalata di campo? È un prodotto che è competitivo rispetto a un prodotto ad oggi in quarta gamma biologico. La cosa bella è che il nostro prezzo non cambia. Il prezzo in stagione, fuori stagione, sarà sempre lo stesso, mentre il prodotto agricolo, tra il prodotto in stagione e fuori stagione, molte volte ha delle deviazioni fino al 300%. Voi producendo questi prodotti che tu ci hai descritto, utilizzate anche la terra o no? Cioè stiamo parlando di agricoltura idroponica? Utilizziamo una cultura idroponica, ma non utilizziamo terra, ma bensì dei substrati organici che fanno la differenza, perché la terra significa la parte batterica. Noi non abbiamo batteri nei nostri substrati, e quindi utilizziamo dei substrati molto sostenibili e efficienti. Cioè c'è qualcosa che si muove all'interno di questa fabbrica? È tutto perfettamente automatizzato. In quella fabbrica rappresenta la filiera nella sua totalità. Quindi entra un seme, esce un prodotto confezionato pronto al consumo che nessuno ha mai toccato prima. È tutto un processo dinamico, fortemente automatizzato. Quindi se dovessi descrivere, diciamo, quello che succede all'interno della fabbrica? Praticamente noi riceviamo substrati e semi, in modo automatico andiamo a seminare, prepariamo tutti i vassoi, li muoviamo in modo dinamico con delle logiche tipiche dei magazzini dinamici, dopodiché in automatico andiamo alla raccolta e tra il taglio e il confezionamento siamo sotto i 60 secondi, tanto per darti il paragone di freschezza del nostro prodotto. La cosa bella è che saremo in grado di consegnare un prodotto raccolto in giornata, quindi un altro vantaggio per il consumatore, perché è un prodotto molto fresco. Senti, tu ti immagini che questo tipo di produzione, cioè soprattutto le verdure, saranno prodotte nel giro di, non so se qualche anno o qualche decina di anni, questa è la prospettiva, non so chi possa prevedere l'evoluzione, solo in questo modo? No, allora, questa è una tecnologia che ad oggi è concreta, reale e matcha quelle che sono le sfide e i problemi globali che tutti gli stati sono ad oggi tenuti ad affrontare. Dipende dai contesti. Nel senso che sappiamo tutti quali sono i trend di aumento della popolazione e del fenomeno dell'urbanizzazione. Le stime dicono che nei prossimi anni ci sarà un incremento di domanda dei prodotti ortofrutticoli di oltre il 70%. I campi ad oggi non ci sono più campi disponibili per essere coltivati, quindi bisogna trovare una soluzione concreta, questa è una soluzione concreta. In certi mercati avrà un timing d'ingresso molto rapido, in altri meno. Se guardiamo al panorama italiano ed europeo, quali prospettive possiamo immaginarci? Diciamo che il panorama italiano europeo forse è un pelo più indietro rispetto ad altri contesti, quali il mercato giapponese, dove si è sviluppato in primis a seguito del problema di Fukushima, quindi indisponibilità delle risorse idriche perché le falde erano inutilizzabili e non disponibilità di terreni per coltivare, al mercato statunitense dove tra la East Coast e la West Coast ci sono talmente una distanza tanto lunga da portare il prodotto poi a essere inutilizzabile. In Europa, soprattutto in Italia, il prodotto c'è, la qualità dei prodotti ortofrutticoli italiani è sicuramente alta, però è stata lì proprio la sfida di Planet Farm, nel senso che noi avevamo richieste da tantissimi stati in tutto il mondo. Planet Farm ha deciso di iniziare dall'Italia. E perché? Perché siamo una cordata di imprenditori italiani, abbiamo alle spalle la maggior parte dei partner italiani e il consumatore italiano è molto più attento rispetto ad altri consumatori. Il focus di Planet Farm è sulla massima qualità possibile, non sulla massima produttività possibile. Ed è il motivo per cui abbiamo deciso di partire dall'Italia, dove c'è tantissima richiesta di prodotto, molto più di quanto te possa aspettare. Il consumatore saprà che quel prodotto viene creato in una fabbrica verticale oppure no? Assolutamente sì. Ci sarà adesso inizieremo una campagna di comunicazione che ci permetterà di essere prossimi al lancio commerciale. Ci sarà un packaging facilmente identificabile e fortemente diverso dai pack tradizionali ad oggi utilizzati in quarta gamma e sarà sul pack ci saranno le informazioni più importanti soprattutto per il consumatore finale, che è la trasparenza più totale. Per quarta gamma che cosa intendi? Perché non so se il consumatore medio sa che cos'è la quarta gamma, io non lo so. Hai perfettamente ragione, la quarta gamma sono i prodotti pronti, lavati e pronti al consumo. La parte bella del nostro processo è che il nostro processo è unico al mondo e permette di non dover lavare il prodotto per essere consumato. Quindi i plus per il consumatore sono molteplici. Primo fra tutti una croccantezza unica perché il nostro prodotto non è mai entrato in contatto con l'acqua. Non viene lavato, quindi abbiamo un risparmio idrico folle nella parte di crescita, ma soprattutto non utilizziamo acqua nella fase di lavaggio che molte volte è un problema che va a contaminare il prodotto stesso. In più La parte importante è che noi, grazie al nostro processo che possiamo controllare tutti i parametri, in primis la luce, l'apporto nutrizionale dei nostri prodotti è molto più elevato. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Faccio un esempio: il nostro basilico e la nostra rucola hanno un apporto di vitamina C per chilo pari a quello del kiwi. Ok, senti, per avere un'idea di, ci dai un'idea di dimensione e di quantità prodotta paragonandola al campo? Cioè, rispetto al campo tradizionale, come sarà e quanto sarà grande e quanto produrrà la vostra fabbrica che diventerà operativa a breve? Cavenago, ha una capacità di produzione tra 1,2 tonnellate e 1,5 tonnellate al giorno, che tradotto in confezioni in salata vai dalle 30 alle 50.000 confezioni al giorno. Per darti una proporzione rispetto al campo, dovremmo analizzare ogni singola varietà, ma se dovessi farti un medione, noi siamo più o meno fino a 200 volte più efficienti, quindi per fare la stessa produzione tu avresti bisogno di 200 volte lo spazio che noi stiamo utilizzando. Voi vi definite ancora una startup? Perché esistete da un paio di anni. Il concetto di startup, bene o male, va a identificare delle società nuove che vanno un po' fuori dagli schemi. Noi, più che una startup, penso che siamo una spin-off del mio gruppo di famiglia industriale che facciamo stabilimenti automatizzati da oltre 70 anni nel campo dei salumi. Noi siamo la prima startup innovativa agricola in Italia. Quello è qualcosa di cui ci rende molto orgogliosi. Poi, che se essere startup o non essere startup, noi sicuramente ci mettiamo tutto il cuore e la massima concentrazione e responsabilità in quello che facciamo. Bene, Luca, grazie per essere stato con noi. A presto. Grazie a te, a presto, grazie. Beh, quello che abbiamo descritto è sicuramente un trend tecnologico importante perché tutto quello di cui abbiamo parlato è reso possibile dalla tecnologia, dallo sviluppo tecnologico degli ultimi anni. Anche per questo motivo, Planet Farms ha vinto il premio Innovazione di SMAU, che si è tenuto questa settimana in presenza, quindi sono stati coraggiosi gli organizzatori di SMAU nella tappa di Milano. Sapete che SMAU è un appuntamento dedicato all'innovazione, all'open innovation. C'erano più di 100 startup che gira tutta Italia e ovviamente quest'anno e chissà forse anche nei prossimi mesi ci saranno problemi per organizzare le tappe locali, ma a Milano c'è stata la tappa di 2 giorni questa settimana. Dunque, adesso parliamo di Gaia X, questo progetto europeo per creare un'alternativa cloud alle offerte americane, cinesi e di altri paesi. Beh, diciamo che dopo gli americani e i cinesi c'è molto poco. Stiamo parlando di una scelta strategica. Nessun paese penserebbe mai di affidare ad altri paesi, ad esempio, la produzione dell'energia. Le centrali elettriche ce le abbiamo sul nostro territorio e una parte di queste centrali sono controllate da aziende che in qualche modo sono collegate al nostro paese o comunque sono di proprietà del paese. Ma possiamo pensare a tante altre cose che vengono considerate strategiche, visto che i dati e sempre più i dati che risiedono nel cloud sono considerati ormai strategici. Beh, l'Unione Europea sta pensando di creare una piattaforma, una serie di regole comuni per il cloud europeo. Ne parliamo con Michele Zunino, che è l'amministratore delegato di Netalia, uno dei primi cloud provider italiano ad aderire a questo consorzio. Benvenuto 2024. Grazie Enrico. Ecco, voi siete stati tra i primi nel nostro paese ad aderire a questo progetto che si sta mano a mano trasformando in una piattaforma sempre più reale, che si chiama Gaia X. Ti faccio dire 2 parole sul progetto, e però vorrei sapere anche per quale motivo avete aderito, e poi appunto ragioniamo sull'opportunità che viene messa a disposizione da Gaia X. Beh, allora tutto parte dal grande tema del trattamento dell'informazione, quindi un tema, se vogliamo, più giuridico, normativo, regolatorio che non tecnologico. Quindi quello che stiamo cercando in qualche modo di gestire è la modalità con cui questi dati vengono gestiti, chi ha il diritto di gestirli e in quali modi questi dati possono essere resi disponibili oppure no diciamo agli interlocutori a cui sono destinati. Il progetto Gaia X prevede di fatto la creazione di una sovrastruttura europea che raggruppi dei provider nazionali all'interno dei vari paesi dell'Unione e che garantisca di fatto delle regole con le quali questi dati devono essere gestiti e soprattutto l'interoperabilità dei dati tra i diversi provider, in modo da evitare sostanzialmente quello che in gergo si chiama lock-in tecnologico, cioè il fatto che i dati gestiti da un operatore non siano poi più in alcun modo gestibili laddove si decida di cambiare il fornitore dei servizi cloud. Certo, o comunque che diventi molto molto difficile trasportare i dati da una parte ad un'altra. Esattamente, corretto. Quindi il fatto di garantire una circolazione facile delle informazioni e quindi di conseguenza una libertà di scelta del cloud provider. Ecco, perché avete aderito a questa che sarà una piattaforma europea? Tra i primi, tra l'altro, in Italia. Devo anche dire che questo è un progetto a traino della Germania e della Francia, franco-tedesco. Gli altri paesi sono un po' appunto al traino e in Italia un po' se ne parla, ma non mi sembra che ci sia questo gran dibattito e questa chiacchierata è anche un modo per richiamare l'attenzione su questi temi. Per quale motivo ti piace un progetto di questo tipo e secondo te perché ha senso un progetto di questo tipo? Ripeto, tutto parte dalle modalità con le quali queste informazioni sempre più digitali vengono gestite. Oggi esiste un serio dibattito all'interno dei vari paesi europei sul tema della cosiddetta sovranità digitale, quindi su quanto ogni paese, ogni governo debba in qualche modo entrare nel merito di come i dati strategici, e magari anche non così strategici, ma che in qualche modo contribuiscano poi all'economia del paese, devono essere gestiti. Gaia X è un'opportunità che ritengo estremamente importante per tutti i provider che gravitano nella zona euro per garantire appunto delle regole comuni che in qualche modo tutelino di fatto governi e imprese che risiedono giuridicamente all'interno dei territori dell'Unione e dall'altra parte di fatto perché si riesca ad avere una massa critica sufficiente per poter fronteggiare correttamente tutti, diciamo, quei grandi operatori tipicamente di base americana, ma ce ne sono anche cinesi, che oggi si stanno affacciando sui nostri mercati e che in qualche modo, diciamo, in molti casi la fanno da padrona con regole che non sono ancora così ben definite e molto chiare e quindi di conseguenza operano come a loro meglio conviene. Questi aspetti, no, sono stati portati in evidenza più volte dal punto di vista fiscale, no? Banalmente, quindi si è parlato nel passato ed è un dibattito ancora aperto sulla tassazione, no? Di questi grandi, delle grandi big tech, no? Tuttavia il problema non è solo quello della tassazione, ma c'è un problema che riteniamo tutti che sia decisamente più importante, che arriva alla proprietà intellettuale, quindi alla gestione dell'informazione e alla conoscenza che poi l'informazione è in grado di garantire e quindi alla capacità di decidere poi di fatto. Ok, questi rischi esistono e permangono anche se le infrastrutture, quindi i data center di questi operatori, e non facciamo riferimento solo agli americani, anche appunto i cinesi, gli indiani, magari in futuro di altri paesi, ecco, anche se questi data center risiedono fisicamente in Europa? Beh, la residenza fisica, diciamo, è soltanto uno degli aspetti, perché poi c'è un tema giuridico che chiaramente va oltre, no, l'aspetto fisico. Ora, faccio un esempio ovviamente per eccesso, no? Però anche le ambasciate, no, tecnicamente risiedono sul territorio del paese che le ospita, però poi in effetti non è così, nel senso che poi l'ambasciata è extraterritoriale, no, come superficie netta occupata. Per cui il problema diventa di tipo giuridico, quindi a questo punto. Ed è proprio il piano giuridico quello che ha l'attenzione di Gaia X e sul quale si sta discutendo. Certo, o comunque il tema è anche, una volta che i dati risiedono in un certo perimetro, tu ti puoi fidare di quello che ti viene scritto nei contratti, di quello che ti viene promesso, ma i dati sono lì. Esattamente, corretto, corretto. A che punto è Gaia X? Ma allora, in effetti è un, come hai accennato tu in precedenza, è un progetto franco-tedesco che poi ha avuto un'accelerazione, per fortuna, e si è costituito sotto forma di entità giuridica a Bruxelles solo recentemente, quindi è questione degli ultimi delle ultime settimane, direi. Ma sta già riscuotendo l'adesione da parte di diversi soggetti pubblici e privati che stanno aderendo, quindi a questo che potremmo chiamare una sorta di consorzio, no, a tutti gli effetti. Netalia, peraltro, è una delle aziende che in Italia è stata tra le prime ad aderire a questo consorzio, proprio con l'obiettivo, diciamo, di partecipare anche alla scrittura poi di queste regole che dovranno essere applicate. E in effetti quello che noi stiamo già facendo è di inserire all'interno di tutta la nostra parte contrattuale degli elementi che in qualche modo sono già stati condivisi e che rispecchiano quelle che dovranno essere poi le regole di Gaia X. Ecco. Certo, possiamo pensare che sia disponibile fra un anno, due o ancora più anni? No, io penso che fine del 21, quindi fine del prossimo anno, saremo pronti con i primi aspetti. Ecco. Sempre a livello strategico, noi però abbiamo la massa critica, le capacità tecnologiche, immagino di sì, ma anche le capacità proprio potenza di fuoco in termini anche finanziari che hanno le aziende americane o cinesi per poter offrire un servizio paragonabile ai loro? Questa è una bella domanda. Beh, diciamo che è già la domanda interna diversa, no? Quindi è chiaro che stiamo parlando di una scala diversa, no? Del motivo per cui si pensa all'Europa come elemento aggregatore per riuscire ad avere delle economie di scala più significative. C'è un aspetto però che mi piace sottolineare quando parlo di cloud, perché oggi, diciamo, il tema del cloud è un tema molto ampio e spesso anche la parola cloud, il termine cloud è usato modo non perfettamente corretto o centrato. Il fatto è che il cloud consente lo sviluppo non tanto di infrastrutture quanto di architetture, cioè le infrastrutture che tipicamente sono tecnologia sono liberamente disponibili sul mercato, quindi non richiedono, come dire, richiedono grandi investimenti, ma non richiedono di fatto ricerca e sviluppo se non dalle aziende che producono tecnologia. Il cloud fondamentalmente è un'architettura, quindi cloud provider ha come scopo non tanto lo sviluppo della tecnologia quanto lo sviluppo di questa architettura che utilizza tecnologie e che in quanto architettura è in grado di garantire l'affidabilità dei servizi che poi deve erogare. Quindi di fatto garantisce la compliance, garantisce, diciamo, i temi di risk management e di sicurezza. In effetti quello che voglio arrivare a dire è che non è così impensabile di costruire dei campioni nazionali che siano in grado, diciamo, di lavorare all'interno di un bacino che è quello dell'economia di un paese, ecco. Quindi io ritengo che sia assolutamente possibile, di fatto, avere delle aziende nazionali, quindi italiane, in grado di competere con i big player statunitensi e non solo, come dicevi tu, in modo assolutamente sereno, ecco. Ok, ricordiamo che all'interno di questa piattaforma Gaia X non possono partecipare i player americani, se no viene a meno il principio, no? Ma allora, questo è parzialmente vero, nel senso che possono partecipare, ma diciamo nelle ultime versioni dello statuto quello che si sta delineando è che non avranno diritto di voto o comunque non avranno, diciamo, la stessa capacità, diciamo, di interazione che avranno invece i provider che giuridicamente rispondono a uno degli stati membri dell'Europa. Ok, beh, interessante. Comunque, insomma, capisco che ci sono ancora alcune cose che stanno cambiando, che si stanno muovendo. Grazie a Michele Zunino, amministratore delegato di Netalia, per essere stato con noi. A presto. Grazie Enrico. E così concludiamo questa puntata di 2024, grazie a tutti per l'attenzione, torniamo la prossima settimana come sempre il venerdì tra le 22 e le 23, domenica in replica alle 13:10 e come sempre nella nostra ricca versione podcast, il nostro super podcast.